po' stanchi e in questo momento stiamo costruendo l'ultima iniziativa della giornata, che è lo sciopero delle ordinanze, perché come tutti sapete in questa città da qualche mese al governo vi è un'amministrazione leghista violenta, che è quella di Massimo Bitonci, e quindi per noi oggi sciopero sociale significa anche riconquistarsi il diritto alla città, e stiamo violando una serie di ordinanze che il sindaco ha promosso in questi pochi mesi di insediamento. Detto questo, provo un po' a ricostruirvi quella che per noi è stata una giornata molto molto importante, molto impegnativa, che a Padova, così come nelle altre città, ha visto scendere in piazza circa un migliaio tra precari, studenti, lavoratori garantiti e non garantiti, lavoratori della logistica, centri sociali e anche una parte dell'associazionismo. È stata una giornata molto intensa, è stato un corteo molto lungo che è giunto ad un certo punto alla fine del corteo. In quel momento i precari e gli studenti hanno deciso di continuare la loro giornata di mobilitazione e di praticare l'unica forma sciopero che i precari oggi hanno a disposizione quando decidono di provare in qualche modo ad alzare la testa, che è quello del blocco dei flussi. Lo sanno tutti che chi è precario oggi nel luogo di lavoro ha molte difficoltà a scioperare, per cui questo era l'obiettivo della giornata. E quindi alla fine del corteo, alla fine, quando eravamo giunti al punto finale del corteo autorizzato, i precari hanno continuato e hanno tentato di raggiungere una delle arterie principali della città, che è la circonvallazione esterna, e hanno tentato di imboccare una via un po' particolare, perché in questa sede è presente anche la sede regionale del Partito Democratico, che era stata scelta come uno degli obiettivi da sanzionare in qualche modo per quella giornata di mobilitazione. L'idea era quella di lanciare dentro la sede del PD, dentro il cortile della sede, delle finte banconote con stampate gli 80 euro di Renzi, che riguardano sia gli 80 euro in busta paga ma sia anche il bonus bebè, che in queste settimane si sta usando da un punto di vista anche della legittimazione, per dirgli chiaramente che i precari e gli studenti non hanno bisogno dell'elemosina, ma hanno bisogno di un reddito incondizionato, di un salario minimo e di diritti dentro e fuori i luoghi di lavoro. Bene, a Padova, così come in altre città, si è espressa nitidamente qual è l'idea di democrazia del governo Renzi. Infatti, appena il corteo ha tentato di intraprendere la strada che in qualche modo gli permetteva di arrivare a bloccare i flussi delle città, ha subito una violenta carica che ha provocato diversi feriti e che tuttavia è stata in qualche modo gestita in modo molto molto importante anche nei precari degli studenti che erano in piazza. Una volta che abbiamo subito questa carica, tuttavia il corteo non si è perso d'animo e come al solito abbiamo usato tutta l'astuzia, che è molto più della loro, e siamo riusciti attraverso altre strade ad arrivare nel luogo che ci eravamo prefissati e comunque a bloccare per diverso tempo una delle strade principali della città. In questo momento si sta scatenando in città e non solo una violenta campagna mediatica che tende a contrastare, ad accusare chi oggi in piazza ha ripreso la parola. E quello che stiamo dicendo in qualche modo è che se pensano di intimorirsi non ci riusciranno, perché davvero per noi quello di oggi è solo l'inizio. La mobilitazione per noi già continuerà la prossima settimana, mercoledì, quando a Scienze Politiche costruiremo una discussione che a partire dai temi dell'università, del sapere e delle scuole si porrà come l'obiettivo anche di organizzare l'accoglienza al ministro Giannini, che nei giorni successivi dovrebbe essere a Padova.